Ciao a tutti carissimi ascoltatori di Radio Big World e bentornati in questa nuova puntata dei monologhi esteriori nell'anno nuovo. Spero che abbiate passato una buona fine del 2017 e un buonissimo inizio del 2018. Vi faccio tantissimi auguri di buon anno e spero che quest'anno i vostri progetti e i vostri sogni possano essere un po' più vicini alla realizzazione. Io sono come sempre Elisa Elena Carollo, la vostra aspirante attrice di fiducia, e oggi sono qui per presentarvi, come sempre, un altro monologo. Che cosa avrò scelto per la prima puntata dell'anno? Ci sarebbe stato bene qualcosa di motivazionale? Oppure sui buoni propositi, sulla positività? Però in realtà avevo già trattato questo tema all'inizio di questa seconda stagione del programma. Se volete potete andarvi a recuperare la prima puntata, la trovate nella playlist di SoundCloud, e ascoltarvi il monologo molto motivazionale di Irina, tratto da Tre sorelle di Chekhov. Quello vi farà venire, spero, voglia di mettervi al lavoro e di darvi da fare. Anzi, me lo riascolterò anch'io perché credo di averne bisogno. Però non volevo ripetermi, quindi ho deciso di prendere qualcosa di un po' diverso questa volta. Un monologo comico, tanto per cambiare. Quindi ho deciso di tirar fuori un monologo del cabarettista tedesco Karl Valentin, che scriveva dei testi abbastanza assurdi, però dall'effetto decisamente divertente. E li recitava lui stesso. Questo però è fatto per una voce femminile, quindi stavolta non sto barando. Sono perfetta nei panni di questa protagonista che scrive una lettera d'amore al suo amato. Non aspettatevi una lettera seria. Aspettatevi l'inaspettato. Gennaio, 33 Monaco, 1925 e mezzo. Mio caro amato, con mani piene di lacrime, prendo la penna nelle mie mani e ti scrivo. Perché da tanto tempo non mi hai più scritto, quando ancora l'altro giorno mi hai scritto che mi avresti scritto tu se non ti scrivevo io. Ieri mi ha scritto anche mio padre. Scrive di averti scritto. Ma tu non mi hai scritto una parola del fatto che lui ti ha scritto. Se tu mi avessi scritto almeno una parola sul fatto che mio padre ti ha scritto, io avrei scritto a mio padre che tu gli avresti voluto scrivere, ma che purtroppo non avevi avuto tempo di scrivergli, altrimenti gli avresti scritto. È una cosa ben triste questo nostro scriverci, perché tu non hai scritto in risposta a uno solo degli scritti che io ti ho scritto. Sarebbe diverso se tu non sapessi scrivere, perché allora io non ti scriverei affatto. Tu invece sai scrivere, però non scrivi lo stesso quando io ti scrivo. Chiudo il mio scritto con la speranza che ora finalmente mi scriverai. Altrimenti questo sarà l'ultimo scritto che ti ho scritto. Se però anche questa volta non mi dovessi scrivere, scrivimi almeno che non mi vuoi scrivere affatto. Così, se non altro, saprò perché non mi hai scritto. Perdona la mia brutta scrittura. Mi viene sempre il crampo dello scrivano quando scrivo. E a te, naturalmente, il crampo dello scrivano non verrà mai, perché non scrivi mai. Saluti e baci, tua NN. Questa povera innamorata autrice della lettera non se la passa bene e non è sicuramente questo quello che vi auguro per l'anno nuovo. No, questa lettera però, oltre a farmi ridere, mi ha fatto pensare anche un po' a una delle cose più importanti che fanno di un anno bello oppure brutto: le persone che abbiamo intorno. Perché le cose che ci capitano non le possiamo purtroppo scegliere, però le persone che abbiamo intorno, se sono le persone giuste, saranno felici con noi quando ci capita qualcosa di bello e ci aiuteranno quando ci capita qualcosa di meno bello. Quindi vi auguro di non trovarvi un fidanzato o una fidanzata come quello della nostra povera autrice della lettera. Anzi, vi auguro di trovare qualcuno che vi risponda, vi ascolti e che vi sostenga quando ne avete bisogno e con cui passare dei momenti felici. E sempre in tema di lettere, vi voglio raccontare una cosa che ho fatto questo Natale. Ho pensato di scrivere dei bigliettini alle persone a cui voglio bene, scrivendo appunto che voglio loro bene e esprimendo questa cosa nero su bianco, così da dirla, da comunicarla a chiare lettere, perché purtroppo non sempre ce n'è l'occasione. Io vivo in un'altra città rispetto alla maggior parte dei miei parenti e dei miei vecchi amici, quindi non ho nemmeno così tante occasioni di vederli di persona. Quindi ho pensato che, oltre al tradizionale regalo di Natale, sarebbe stato carino esprimere quello che sento per loro e quanto sono importanti per me. Non vi dico che dovete fare la stessa cosa, però vi auguro in questo nuovo anno di riuscire a comunicare con le persone e a dire loro veramente quanto sono importanti per voi. E vi auguro di ricevere altrettanti attestati di affetto e di stima in ritorno. E quindi il mio augurio si concentra su questo. Ora mi rendo conto che sto diventando troppo sdolcinata con questo discorso, quindi la smetto. Vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata. Potete ascoltarmi il prossimo mercoledì, sempre alle 20:30, su Radio Big World oppure in versione podcast. Noi ci risentiamo presto e buon anno ancora!